troviamo a Barlucciano, dai. No, no, non le conosco Barlucciano, ci troviamo a Carrefour. A Carrefour, oh, da Don Luciano, cazzo cittadino, in Cecia per la fila birra, da Don Luciano. No, no, è Barlucciano, io che sotto. Non sono Sicco. Zelleri, è un circolo. Non la conosco quella zona, io no, Gianni. No, conosco Barlucciano, conosco Don Luciano, guardo di Cristo Redentore. Eppure chi ce l'ha giù vicino, che ha giù vicino io. E se che ha fatto l'amaro, vabbè, già, già te lo dico ma sta lì. Ma Don Luciano? No, è do, chi so, romarista. Non lo conosco io, tanto. Ehi, già, già te lo dico io, un giorno che ci vediamo te lo dico. Va bene, avanti Carlo che sul parcheggio. Chi c'è, chi c'è? C'è Pompetta. Oh, non gioco, anche loro che si intende male. Avete parlato in due, chi è? Ho detto che sono tutto gonfio. Ehi, si vede. Comunque Natalino non passa qui con Antonio, eh. Cazzo, se ce l'hai a 100 metri, io sto parlando di casa sua. Che prove, cazzo, che fate? Ma venti vedi a fare che prove, cazzo. Hai dimenticato, sì. Quant'anni in frequenza, cazzo, boh. Antonio, anche qua non passa da lì, da dove è adesso. Io ho fatto la prova da casa tua, da casa di Antonio, a te, a me, vedere se passa. Ah, così non fa cosa. Comunque poco fa stavo ascoltando. Capace. Buonasera a tutti, conte bene i cuccinici. Io Massimiliano metti ordine. Su, l'hai compreso. Tu immagina se fosse stato a Carbonazzi in via La Malfa, Antonio da lì da dove adesso non passava manco Roberto Quadrato, manco Du. Perché una volta l'avevo sentito lì facendo una prova, era 9.60. Tu sei stato a Carbonazzi, avevo fatto il muro di Berlino, non si è pensato nessuno, lo dico io. Da lunedì in poi chiusa la propagazione. Vabbè. Cazzo, tu comunque Antonio hai aumentato di 10 lo stesso col 140, cazzo, mi stai arrivando quanto è Carlo? Prima arrivavi un bel basso, adesso sei quanto è Carlo? 9 più 30 pieno, sì. Sono con 20 watt nemmeno. Buonasera Carlo, avanti Carlo. Natalì, sei riuscito ad assaggiare quella roba? Natalì, Antonello? E Antonello, scusa, quella roba che tonda che ti ho dato. Sì. Una bomba. L'ho tagliata stamattina, è buona. Cazzo, c'era un amico mio che la faceva tonda, ma una masciata di mella, balò. No, non è... Non è quella. Era peretta, vaffanculo. Classi, c'è fiago di fava comunque. Fiago di fava la buia, dove mette il campo del guru. Mamma mia, che canale sporcaccione. Avanti, non breve. Eia, ciao Antonello. Oia, tutti a rete siamo stasera. Metti ordine, Massimiliano, metti ordine. Fate da bravi, tutti quanti. Dai, sto scherzando, Noè, manco, per dire una cosa così, dai. È buona, era Antonio, questa peretta, dove l'hai portata? Oh, Carlo, la Bonorva. Buona, certo, quella di Bonorva. Anche quella di Porto Maggiore mi piacciono. Portamene una anche a me la prossima volta. Cosa che l'ha presa sotto il voto dei cinesi, così. Oh no, sono fatte dal pastore queste. E caro Ghiccio. E che pastore? Pastore Serafino. Fatte in casa come una volta. Cazzo di ogni gira per Ghiccio un FM avanti, cazzo di scebideggio. Cazzo di euro. Con tutti i canali che vi gioca, 9 vitti mi stanno arrivando. Non sento più a Massimiliano, a Gianni o Profetta, E io ce ne andiamo in FM tutti quanti allora, no? Sì, ma di 960 in FM. Faccio poco fa con la Gigio, 9 più 20 sta arrivando. Dai, accio quelli due. Anzi, sono altri due, veramente. Ma sono... non sono due, due rematori. Questi. Parlano tutti i giorni. 9 più 20 arriva alla... No, alla... a Bofeng, all'altro. Su canale 10. Se sono ancora più lontana, ciao, buonanotte, ragazzi. Ci parlo... anche di notte ci parlo. Tanto lei, ma vuole avvento, la nostra buona fa. A me l'ho messa giù nel coso, io non neanche la sento, la verità, sono con le cuffiette. C'è il televisore, si sente, anzi stamattina lo vuoi sentire, cazzo, c'era l'allarme gatto nel... mi ha pigliato male, mi ha preso. Dillo come sentiva l'allarme, da carbonati giù vicino al coso, a primo di fornitore. Claudio sicuramente si è allontanato, va. Avanti Carlo. Oggi sarà in FM a disturbare gli spagnoli. Antone, quindi sta andando bene questa radio nuova che hai? Sì, a voglia, ce n'è anche per i coach. Se 15-20 watt, faccio di ex come parlare, la prima parola troppo, capito, tutti i giorni. Mi chiamano gli spagnoli, rispondo, come quando, come la porta, lanciavo il 80, fare uguale. Ma stava a fare perché davo subito. Stasera, lo stavo dicendo prima a Claudio, intorno alle 4 di pomeriggio, no, in banda laterale, in SSD, ho parlato con questo Enrico, stava modulando dall'Isola Rossa, con Fabio di Bonnannaro e Giovanni da Ozieri, in banda laterale. Io stavo uscendo con 20 watt e mi sentivano bene, addirittura all'Isola Rossa arrivavo Santiago 8, Radio 5, capito? E questo Enrico mi ha detto che praticamente lui è all'Isola Rossa, ma diciamo alla Casa Trinità, penso che sia un radioamatore, non è sardo, ma diciamo è sardo d'adozione perché conosce molto bene la Sardegna, mi stava parlando di un sacco di località che ha visto, anche nella costa lì sotto Nuoro, sotto il Golfo di Orosei, Caramariolo, conosceva poi anche l'interno, la zona del Goceano, e niente, infatti gliel'ho detto, siccome abbiamo provato a fare il collegamento anche in AM, gli ho detto di fare chiamata qua sul 10 stasera a vedere se lo sentiamo, perché dalle sue parti dice che non c'è nessuno, capito? Quindi lui parla qualche volta con Ozieri, ha detto che conosce Claudio di Muros, che ci ha parlato qualche volta, capito? E niente, è interessante perché in quella zona non avevo mai sentito neanche io nessuno. Vai Massimiliano. In quella zona, anche per me quella zona comunque è buona, là. Tutta quella zona, Castelsardo, Fidalba, Badesi, quella zona è tutta buona. Basta provare a entrare la sera, fare chiamate, vedere un po' se riusciamo a ascoltarlo. Ma anche Pomponio, tu, Claudio, tutta, per quella zona lì è tutto buono. Credo che anche per Gianni Rubreffetto, vero già. Lui, io con la roba che ho poca sensibilità, non riesco ad ascoltare certi segnali. Magari senza borbottare sotto in mezzo al rumore di fondo, ma non... sono completamente incomprensibili, dai. Già, scusa un secondo, metti solo la portante. Ok. Hai una specie di fruscio sotto, ma c'hai qualcosa di acceso? Da altre parti, ventilatori e cose così? No, negativo. Niente di che. Non ho... nulla. Forse da molto sai che non cambi la batteria di quel coso. Dopo gliel'avevo messa alcalina. Probabile che magari piano piano si stia scaricando. Io sento tipo come... che sta per andare in un innesco, non so se gli altri te lo sentono. È un rientro di RF, c'è qualcosa che ti sta disturbando. Anche Claudio, vedi, se ne è accorto. Tu Carlo, hai sentito qualcosa? Si sente, sembra quasi una specie di vento, la wow, sottofondo, sì, sento anch'io qualcosa. Oh, microfono, radio, Rosmet Regantella, non viene nulla attaccato. Ascolta, prova a chiudere leggermente il Mickey Game. Ecco, Mickey Game della radio a metà. No, ma quella sta scaricando la batteria, allora, secondo me la batteria. È un retro di avesso con la batteria, già la batteria infatti. Non ce l'hai una nuova a provarla o già? Ehi, credo di sì. L'ho comprata, ma gli scorta il cassetto, adesso guardo. E prova a metterla da quella dei cinesi, giusto per provare. Comunque la modulazione copre tutto. Quindi, Carlo, sei convinto allora dell'antenna che ti ho fatto comprare? O sei ancora, hai ancora dei dubbi? Una signora antenna quella. Una signora antenna, veramente una signora antenna. Ci sto pensando anche io. Non ho mai avuto dubbi, io da quando l'ho provata, dai primi giorni, te l'ho detto subito. Diciamo, non ne avevo mai avuto così, con prestazioni elevate, dai. È buona e spero che ci duri qualche anno lassù. Io prima di darle l'ho provata io. Non mi sono permesso nel modo più assoluto, perché quando a me me l'ha mandata, sono stato il primo in Sardegna ad averla. Io avevo la Mantova, quindi gli ho messo un tubo a fianco. Nonostante è bassa, perché può lavorare ad altezze minime, anche a un metro da terra, e ha le stesse prestazioni. Io, come da manuale, l'ho tarata per terra, e te l'ho data già tarata, perché il tubo di taratura io te l'ho dato già inserito, ce l'hai visto, ho detto non la toccare, prova nel caso, c'è da regolare, tira appena su questa stina. E invece era perfetta, capito? Era perfetta. E c'erano 5 dB di differenza dalla Mantova, sia in ricezione che in trasmissione. Quindi anche io ho detto, caspita, nonostante sia una 5 ottavi contro una 7 ottavi, c'è una differenza netta. E ho iniziato a farvele mandare, ne ho venduto in tutta la Sardegna 56, 50, tant'è vero che la Smartec mi ha regalato il televisore 55 pollici. Infatti anche stasera me lo stava chiedendo quello che ho collegato dall'Isola Rossa, che antenna avevo, e gliene ho parlato, e conosceva la G-Pol, come era fatta, ma non sapeva, cioè non della marca Smartec, non la conosceva. Infatti ha voluto che glielo scandissi, e molto probabilmente era interessato anche lui a un tipo di antenna del genere, perché ha detto che da Sassari gli arrivavo molto forte, capito? E quindi questa è la dimostrazione che l'antenna va bene. Scusate, io mi devo allontanare dalla radio, ci sentiamo dopo. Ehi, Massimiliano, qua siamo. Sì, ma non hai dubbi, bella robusta con l'antenna, vai tranquillo. La prima settimana l'ho messa che si è arrivata questa maestralata, ma avevo paura che la aspettassi in due. Invece non gli ha fatto assolutamente niente, perché è un alluminio bello robusto, poi è doppia, capite, affiancata da 2,75 m di un'altra antenna a fianco, staffata, quindi riserva molto. La parte, l'ultima parte è abbastanza robusta, piega mano spessa, gappa. Avanti a chi tocca, Antone, riprendi tu. Bella, io adesso appena ne parlo stasera vengo Giuseppe, nel senso, quando facciamo l'antenna mia, e tornato dopo il 15 gli ho detto compro il palo e pensiamo il palo nuovo e la sollevo, perché basta così com'è. C'è, ho queste palazzine di fronte che mi tappano la zona di sorso, e da sensato, invece prima facevo, quando non c'erano queste palazzine, facevo tutto quanto aperto, vedevo addirittura la tamona, il soffitto e tutto, ma adesso non vedo più un accidente, quindi mi sollevo a meno di un paio di metri in più, aperto bene, ci metto i tiranti, ne metto sì, e fatto un altro colpo l'antenna. Sì, anch'io ancora sono in condizione precaria, già pensi che la Mantova è bassa, la Smartec l'ho tolta perché ho messo l'antenna delle V e delle U, capito? Però adesso appena ho tempo, a fianco piatto le altre staffe, in mezzo rimane le V e le U, e a fianco ci metto normalmente la Smartec e la tiro su 6 metri, capito? Le lascio tutte e due, sia la Mantova che la Smartec. Però ho dovuto raccogliere perché non avevo altre possibilità al momento, non avevo tubi, non avevo niente, quindi ho montato l'antenna delle due di Liu che mi serviva al posto di quella. Vabbè, comunque l'importante è che Carlo sia tranquillo, già va bene, avanti Carlo, fai girare. Comunque tutto l'inverno l'ha passato sul tetto, quell'antenna già è sempre lì, bella dritta. Adesso vediamo l'estate e passerà un altro inverno, già è robusta come antenna, non, anche se è alta, già tiene bene anche il maestrale, ho visto, flette ma non più di tanto. Claudio, passa sul 12. No, rimani qua che non c'è più quel rumore. Aspetta, faccio un passaggio portante mucca. No, non ce l'hai più, c'è appena una pentolina, qualcosa del genere, ma non ce l'hai più. No, c'ho la finestra aperta, quindi senti sicuramente il rumore di fondo della strada, dai. No, ma non ce l'hai più, va bene, adesso è la batteria, come ha detto Massimiliano. Ti confermo, non c'è più quella specie di rumore. Bene, dai, tutto risolto. Sì, ma non dava fastidio già, la modulazione copriva nettamente tutto, però se lasciavi pausa sentiva questo innesco in sottofondo, dai. Quasi andava a fischiarmi. Adesso non c'è più. Vai Antonio. Adesso ce l'ho bene, perfetto. A bomba, la dei 5 bella pesicata, non c'è più quell'effetto. Me invece volevo fare quell'effetto, volevo fare l'altro limitatore, quello switch. L'altro che ho piazzato, quello che sente la ventolina, che ce l'ho messo giù quel momento, ha chiuso dentro una scatola di metallo che già è visto Claudio, della stazione saldante, sente molto di meno. E va bene, abbiamo messo il provvisore, adesso vediamo un po', li fammelo cambiare, come in questi giorni, dopo il 15 scendo dai cinesi, ne prendo uno uguale e poi l'altro c'è la scatola, faccio cambiare, dico che non funziona, io così me lo cambio bene, le piglio l'altro da 30 ampere se la biglia in culo, anzi aggiungo qualcosa in più e piglio quello da 40. Per quella radio 30 ampere al limite, però già va bene, dai. Se lo tieni a 20 watt non c'è bisogno, c'è un segnalone, poi c'è picchi modulazioni allucinanti, quindi già va bene, l'ottimo per la truppa, che te lo sopporta bene con l'alimentatore, non ti preoccupare. Vai Antonio è al lavoro, riprendi Gianni che Massimiliano si è allontanato. Gianni evidentemente è andato qualcosa, è andato. Ma come si chiama? Quella malvetta che c'è andata. No, negativo. Mi stavo andando a svuotare il portacenere. Luia. No, ho cambiato l'alimentazione della radio. Probabilmente era quello, dai. Ah, troppo. Già va bene, già va bene, se esce perfetto. Ha voglia, c'è anche per il pulce adesso. Pregunta, Antonè. Ah? Pregunta ti devo fare. fallo, dimmi. Il microfono MB+4 che ho. Ho saldato lì uno spinotto a 6 poli e siccome lo vorrei utilizzare poi per il Galaxy, tu me lo piazzi uno spinotto a 4 poli. Uno spezzone a 6 a 4 in pratica, voi no? No, quello lo togliamo, lo spinotto, e mi salvi quello a 4. Quello non c'è problema, no? Pensavo che volevi tenere lo spinotto a 6 e poi metterci quello a 4. Va bene, te l'ho detto l'altra volta, no? Non c'ho problemi. Già te lo faccio, sono 2 minuti a farlo, non è che ci voglia risolvere anche, devo togliere la vittina. Metto il baracchino con le 4.000, faccio la commutazione e è fatto. E poi passare qua il mio, ma non c'è nessun problema, già è una cazzata l'MB+4. C'è lo schema, lo schema elettrico del coso, è una cazzata. Vabbè, domani al limite già ci sentiamo, domani mattina, che sono libero domani mattina, al limite mi avvicino e te lo porto. Cosa ti volevo chiedere? Ne trovo in GBC di quegli spinotti, oppure in via 4 novembre da Fusaro? Allora vai da Fusaro, vai, prendilo di lì, tanto io non c'ho più niente, cosa ci vai a fare? Altra volta sono andato io, Tony mi serve questo, però io non ne uso più di questa roba qui, non ne ordino più, ordina da internet, ho detto vabbè, ciao, ci vediamo, detto. E tambè piglia deve in cura a un certo punto, poi c'è messo in testa di vendere quelle cose cinesiche, che c'ha, componentistica non ne ordina più, manco cavo, nulla, non c'è antenne, non c'è microfono, niente, non deve andarci. Usava me c'ha gli spinotti, almeno ce li ha, quelli a quattro. Ce li ha angolari, ce li ha normali. Ma forse lì è meglio quello dritto, no? Anziché quello angolare. Un attimino arrivo subito. Quello dritto lo rimetti. Quello angolare l'avevo messo io nel 4000 perché ci avevo infilato dentro un mobiletto, capito? Solo che poi toccava all'interno e i contatti erano un casino. Allora ho preso e gli ho messo lo spiato normale. Infatti ce l'ho fuori. Hai già fatto la fotografia, già l'hai vista quando tu mandavo. Che è dentro con la scatola di legno, dove c'è scritto della Philips. In pratica quello era un contenitore per in piatto serio di macchina, capito? O le casse esterne. Sì, sì, ho capito. E perché non ne vale la pena, neanche perché costa pochissimo stare a ordinarlo su internet, non ne vale neanche la pena, costerà un paio di euro massimo. Antonello? Costerà 2 euro, mi sembra, una cosa del genere. Avanti Natalino. Guarda come ti arrivo. Sei 9:20, radio 5, si è aumentato comunque. Però Antonio qua ti passa. Antonio Bombolo. Però ti presente che lui è attaccato, quindi. Però arrivi 9:20, perfetto, preciso. Una bella radio chiara. Ma anche l'antenna delle cose ti è stata l'altra, a parte quella del 27. E il treno ho piazzato l'antenna. Allora quando vuoi facciamo la prova in PMR, perché da qua su canale 10 PMR ascolto la corsa, cazzata, ma non l'ho mai ascoltata in vita mia. Forse ho azzeccato il punto, io ho pensato, vabbè, ho messo l'antenna alla TV. E anche bassa, non è neanche alta, me. E ascolto tutti i giorni la Corsica da qua, sul canale 10. Figurati. No, io non posso fare niente. Capito. Faccio solo ascolto e buh. Ehi, vabbè, non è che lo fai in PMR e puoi entrare. Non è che ci andano in LPD, no? Ma è meglio di no. Sì, bisogna tutti, bisogna, in PMR. Se vai a ascoltare c'è Mesina, c'è il pronto soccorso, poi c'è la medicina 1, poi mi sembra c'è il terzo piano anche. Sono partono dal canale 1 e dal canale 7. C'hanno i contratti, ogni piano c'ha un canale. A poco se ne vanno direttamente. Si occupano 23 canali. Comunque Natali, diciamo il segnale tuo è sempre fondo scala da me, quindi è un 9 più 60, cosa vuoi che ti dica? È sempre stato così, però la radio è più potente, mi sembra, capito? Infatti mi sembra che la tua voce è leggermente diversa, però è chiara, capito? Non è che va in distorsione o saturazione, niente del genere, proprio più roboante, capito? Forse è proprio la questione dell'antenna nuova. No, evidentemente sì, ma poi bisogna saperlo regolare questo, perché se sbagli poco ma di un cc va a strappare. Ho capito, no, ma così va benissimo. Perché io la conosco da tanto, capito? Ci sono certi che non riescono manco a uscire. È un macello, capito? Poi io parlo a voce bassa, perché se gridi non va bene con questo microfono, parlo come Claudio io, va. Domanda per Antonello. Ehi, si dimentica già nel capello a casa tua, guarda. Ti fa sotto, ti fa, se no Mario Mansemi, che c'ha quella tua età alta, alta, alta, infatti di quando arriva qui, Mario, cazzo, ti sento fino al secondo piano, ti sento. Sentivo solo lui. No, vai, dimmi già. Allora, sicuramente tu sei più informato di me. Allora, che tu sappia, in questo momento, Fusaro, che tipo di disponibilità di antenne per la 27? Che tipo di disponibilità c'ha? Cioè, oppure deve sapere per forza ordinare, o in casa c'ha qualcosa che tu sappia? No, non c'ha niente adesso. Allora, l'altro giorno avevo chiesto, se c'è un'antenne, detto, non c'ha niente. L'ho chiesto a Antonello, l'ho chiesto addirittura. Non c'è niente ancora, bisogna che lo dice Antonello e te la ordina, dipende dalla gente da voi, se vuoi una cosa, non so, una Super LM, una ma con la vingoccia, figurati, deve ordinare. Pensavo che avesse qualche marchio ufficiale, dai, che tipo rivenditore autorizzato, dai. Quindi non mi sai dire se vende solo, cioè, dico, se vende Sirio, Lem, Midland e roba del genere. Lem solo c'ha. La Midland, il Sirio ce l'aveva tu mio GBC. Capito? Ma su internet costano di meno, che lavoro di unità lì, sai quanti ce ne sono, abbiamo 27 euro, comunque c'è una natalina, 60 euro, è pieno, è una 5 ottavi, va benissimo per casa tua, è leggera, non è pesante, come la mantova pesa, cazzo, è un casino, se ci metti un palo d'acqua, la si metti, più l'antenna ci vogliono 3 persone solo a sollevarla. E poi muore lì con l'antenna, perché scende laggiù poi non te dico nulla. E non ti lamento quello che ho faticato a scendere nella mia, che è leggera, quella che ne ho sceso. Perché non ti prendi un'antenna come la mia, Gianni? No, vabbè, domanda facile così. No, per carità, ho detto, ma magari se c'è qualcosa di interessante mi posso dei bassi e me la prendo qua a Sassari. Poi, magari se c'è quei 10 euro di differenza non è un problema. Capito? Era giusto per quello. Poi no, vabbè, ne ha giovisto tutti i guroni, le antenne. Antenne, cavi, connettori, vedi tutto e di più. No, era giusto una. Siccome sono da parecchio che non ci basti con la Fusaro, quindi era giusto per quello, un'informazione proprio basica. Io ho capito. Adesso non lo so se c'è quella che ha preso Gianni. Non lo so se l'ha presa da Fusaro. Glielo chiedi a Gianni doppio rum. Gianni c'ha la Super Lem, vabbè, trofomane chissà. Una 5 ottavi già va bene, dai, tipo Sirio o Sigma Venom, dai, una cosa del genere. Tanto ho messo il palo da 4 metri adesso non mi ricordo, col calibro ho misurato una sezione appena appena più grosso di quella precedente, già ce la fa a reggerla, dai, una 5 ottavi senza tiranti. Non lo so. Quella che ho io non te la consiglio, perché a me mi si viene la bobina d'acqua e mi faceva quel difetto là. Sono pronto. Non lo so, chiedi a Franco California dove l'ha presa la Venom, che lui c'ha la Venom, c'ha. Vedo che funziona bene quella di Franco. Dai, ultimo passaggio, non vogliamo monopolizzare. No, sai qual è il discorso? Che ci sono un sacco di scelli qua, girano nella mia zona. Corvi, colombe, cornacchie, gabbiani. Se pongo un'antenna radiale mi viene a fare di tutto. Allora mi ha di chissà come entra la mia e lì dire radiali non ha. E rende pure. Perché 5 ottavi. Ti posso dire che io mi sono trovato bene, aspetta un attimo però. così bene va. Di Russo, avanti Antonello, e poi c'è anche Carlo in parcheggio. Ma mi fa una cosa, tanto sapete che non la sta usando. Fatela la regola Saverio, ti metti quella. E nuova, non l'ha mai l'ha messa la terrazzina, non andava bene e ce l'ha buttata a casa sua. Fatela l'ale, ti metti d'accordo per quanto vuoi, ti metti quella, ce l'hai direttamente subito. Capito? Fatti la ringo, tanto a lui non gli serve la ringo. Boh, l'ho provata tempo fa, me l'aveva prestata Daniele. L'ho tenuta un paio di settimane, poi come piove entra umidità e sali stazionari, non mi è piaciuta di Sant'Ena. Vabbè, la lingua lo sai che è fatta così, c'è però la specie di scuola. Ma se isolarla bene non ti dà problemi, la lingua ci metti silicone, vasellina, quello che è. Non lo so. Cioè, se no ti buschi una BM17L o se vuoi spendere poco. Se sei proprio che mi fai su internet le cose. C'era anche una 7 ottave, c'era lunga 7 metri, però c'è 7 metri radiali, non te lo consiglio per fare quella. 98 euro me la stavo lavando, scontata più di 10 euro di sconto. Forse mi sembra si chiamava Tornado, non mi ricordo adesso la verità. Il discorso è che non voglio piazzare Barrasone, tutto qua. Anche non voglio svegliare il cane che dorme qua in condominio, quindi sai, qualcosa di discreto, no, radiali zero, proprio non, senza radiali, quindi la prerogativa è questa. Avanti Carlo. Allora, io fossi come te prenderei come quella di Natalino, senza radiali, non ha bisogno di nessuna taratura, 5 ottavi, un'ottima antenna, è facile da piazzare se non la metti molto in alto, ancora meglio, capito? Quella secondo me è, se la puoi ordinare su internet la trovi, perché costa anche 20, 30, forse a volte anche 40 euro in meno rispetto al negozio. Il negozio te la ordinano e ti caricano tutti quei costi là di spedizione eccetera, a volte la trovi anche con spedizione gratuita, capito, su Amazon oppure su eBay, quelle ci sono. La Sirio poi è un'ottima marca ed è discreta come antenna anche per la vista. Ho smanettato parecchio, dai, più o meno le ho viste quasi tutte, e oscillano dai 50-55 sino alla Game Master che 140-150, dipende da dove guardi, dai. Adesso vediamo, dai, vediamo cosa comprare, e niente, dai. Avanti a chi tocca. Se prendi la Game Master, prendi la 5 ottavi, non la mezz'onda, perché c'è sia la mezz'onda che la 5 ottavi della Sirio. Antonio, ci sei? Antonio Bova deve essere uscito senz'altro. Cava. Scusa, dita e... Oh, nella canna da pesca. Ce l'ho quella io, ce l'ho qui buttata in terrazzino, la canna da pesca. Però messa nel terrazzino a me mi funzionava bene, l'ho messa sopra il tetto e c'è una bella differenza dalla mantova, ma molta differenza, in meno, non in più. Non capisco perché, invece nel terrazzino funzionava benissimo, c'erano 5 dB di differenza tra una e l'altra, è messa più bassa pure. La canna da pesca non è problema, non c'è radiale, è leggera. E niente. Vedi tu, fai tu, se per sì, 36. Va bene ragazzi, io vi saluto, dai. Ci sentiamo alle prossime, ciao. Massimiliano, ci sentiamo. Ciao Massi. La tua guarda è... Se va bene ci sono, sopra le 7, fuori anche. A me non mi ha reso niente la verità, non la pesca. Infatti l'ho tolta, ce l'ho buttato la terrazzina, ce l'ho buttata. C'è anche Savera che era la pesca, non è che ce ne abbia... C'è anche lui, anzi gli ha due che era la pesca, Savera. Oia, oia. C'era anche Marco. Poco fa, cioè poco fa. Adesso è passato un po' di tempo, sicuramente è andato a farsi la doccia, stava tornando a fare la spesa. Magari ancora in ascolto, boh. Magari in ascolto, sì, niente di strano. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare sul 10. Avanti, chi vuole entrare sul canale 10? Ciao Claudio, buonasera. Proprio oggi ti ho nominato perché stavo parlando con Bonnannaro e Ozieri e mi stavano parlando di te, Fabio di Bonnannaro. E poi ero in collegamento anche con Enrico dall'Isola Rossa e ci siamo trattenuti una buona mezz'ora, però in banda laterale. Ben risentito Claudio, visto che ci sei dammi un controllino nelle coordinate tue di Muros e poi ti rilancio Antonello. Ehi, ciao Claudio, ben sentito. Come mi ascolti il segnale di radio? Già va bene, va bene, Carlo si usa il Saturneco. A me mi fa capelli e baffi mi fa. Claudio, qua mi arrivi tu, Santiago 9, tondo tondo, Santiago 9, Radio Super 5. C'è anche Franco, vediamo se ti ascolta. Allora, Franco non c'è, c'è Gianni Lubrofetta. Ragazzi, io sento rumori di propagazione, parecchio rumore di fondo, ma Claudio oggi non lo ascolto. Non so se mi copia lui, comunque dai, lo saluto e niente, nel caso fate la ponte. Sì, Gianni ti saluta Claudio, ti cordializza e spera di risentirti. Vai Antonello per Claudio. Sì, a cappa, vabbè, aspetta che mi sto... C'ho un po' di soldi in faccia, ma mi sta massacrando. Mi sto sciogliendo, mi sono, aspetta che basta la... Un po' di propagazione, sento qualcuno sotto perché ho alzato lo squelce, non so se sono spagnoli o di qualche altra parte. Vediamo un po' se c'è qualcun altro che vuole entrare sul 10, c'è Carlo, Claudio da Muros, Antonello, Gianni, QTH Sassari e poi vediamo chi altro c'è. Avanti sul canale 10. Prendi tu Claudio. Ed è bello quello parecchio là. No, io c'avevo il faccio 123 A, cioè c'ha la lampadina gialla e la lampadina rossa, che l'avevo passato a un amico mio di Ossi che poi dove c'era ancora a casa sua insieme a un FM500 ce ne aveva e una B27. Adesso non è che non lo vedo, io non lo vedo, io credo se ce l'ha ancora me lo faccio male, te lo regalo, il faccio 123, era nuovo nuovo, quindi figurati, io proprio con gli apparecchi non mi piace, non sono amante di 23 canali. Che stai usando tu è un modello diciamo da stazione base, il Mobicom, Claudio, insomma già sei attrezzato bene tu. E dimmi, in bicicletta sempre uscendo stai Claudio? Tre cose interessanti insomma. Ascolta, è l'organetto, musiche sarde tradizionali, quella roba lì fate, è bello bello. No, io in bicicletta esco qua, però faccio pedalata dentro la città e mi sono preso però la bici, quella con pedalata assistita, e faccio anche 2-3 ore, ovviamente mi aiuto solo nelle grandi salite, poi per il resto già c'ha i rapporti e quindi già un po' di movimento lo faccio sempre anche io. Con la bicicletta quella normale non ce la faccio più. La vecchiaia carogna. A proposito di bici, c'è la ditta che fa le bici agli ucraini, in pratica escono in due e uno si mette lì, gli hanno installato un coso dietro per i missili e stanno usando quelle adesso, fanno 80 km all'ora, fanno quelle bici, c'hanno dei copertoni grossi ma veramente belle sono, deve fare una vita in Polonia, che fa? L'ho vista l'altro giorno, l'ho vista. Hai visto l'altra cosa che siamo inventato, Carlo? Gli ucraini. Con la bicicletta si mettono i bicicletti, tac! Si mettono nascosti dietro l'albero, boom! E poi fuggono. Sì, l'ho visto su internet anch'io. C'era anche il video, in due su una bici elettrica con un lanciaraggi di quelli di nuova generazione, belli pesanti. Dimmi, aspetta che giro una domanda a Claudio, la bici in carbonio, per curiosità, quanti chili ti pesa? Quella è, diciamo, di quelle professionali o semiprofessionali, quanto pesa? Sì, no, era giusto una curiosità, sì, so che sono molto leggere quelle lì. Adesso ancora un'altra curiosità, Claudio, ti rilancio Natalino che stamattina ha messo finalmente un'antenna e un cavo nuovo, e vediamo come, se ti arriva lì a Muros, vai Natalino per Claudio. Non lo sento a Claudio io. Sentito tu Claudio Natalino? 6:30 arriva qua. Sì, no, neanche lui ha detto che ti sente. Purtroppo forse è negativa quella zona, troppo in basso a Sassari, e quindi io riesco a scavalcare la zona di Scala di Gioca e quindi vado oltre anche. Ma neanche Gianni lo sentiva. In questa zona è negativo per quel tratto lì. Ai Gianni? Qua Claudio a me mi arriva Santiago 9 a casa mia da Muros, sta uscendo con una radio con 4 watt mi sa, una radio che sta utilizzando per farla un po' girare, perché era da molto tempo che non girava, però riesco a sentirlo bene. Vediamo se c'è ancora Claudio. Vai Claudio. Sì, la mia come l'ho messa e l'ho piazzata, è rimasta lì, è durata tutto l'inverno, non si è mossa niente, piegava, però ha resistito anche alle raffiche forti di maestrale che ci sono state. Adesso tutto il periodo estivo sino a ottobre, insomma, tranquillo come vento, speriamo nella propagazione, però sto ottenendo degli ottimi risultati, come antenna è eccezionale, risultati buoni. QRM non è tantissimo quello che si sente, comunque riesco a tirare fuori a volte anche i segnali deboli, se abbasso molto lo squelch, cosa che con l'altra antenna invece non riuscivo a fare. Sì Claudio, ho capito, aspetta che forse c'è stato un break. Avanti, chi vuole entrare su 10? Marco, se Marco conta, Marco. Marco sta ragionando. Ah, c'era Marco per fare, c'è la chiesa. Ciao Antonio, ben rientrato. Ciao Antonio, lo senti Claudio da Muros? Negativo, strano. Dove sei? Al lavoro o a casa? Lavoro sono. Guarda, sta parlando con me Claudio da un bel po'. Qua da me Santiago 9 pieno, sta usando un Mobicom 30 della Intec, sta uscendo con 4 watt e mezzo, mi ha detto. Tanto non riesco a sentirlo, strano. Vuol dire che non c'è potenza. Deve mettere un po' di potenza se vuole che lo sentano. Neanche Gianni lo sente, non lo sento io, che ho l'antenna nuova. Speravo di sentirla, invece è negativo. Se non mette il ratino, magari è una zona infida, magari voi perché siete di fronte a lui. No, io altre volte in passato lo ascoltavo, ma adesso c'è un sacco di sporcizia di propagazione, e quindi non riesco proprio ad ascoltarlo per niente. Cioè, ci sono rumori vari, c'è questo rumore di fondo forte, e quindi per me questa volta è negativo. E anche per me c'è propagazione, non lo sento, non capisco. No, forse gli arrivo. Claudio, stavo parlando con Antonio, con Natalino, con Gianni, appunto, che altre volte qualcuno di di loro ti aveva sentito. Natalino ha messo l'antenna nuova e sperava di sentirti, evidentemente con i tuoi 4 watt e mezzo magari c'è bisogno un pochettino di potenza, magari quando userai le altre radio più performanti riusciranno a sentirti sicuramente. Figurati, da te è 9, ti puoi immaginare come cazzo sta uscendo? Perché c'è a minimo da Muros deve arrivare minimo 9,20 minimo, cioè poi non arrivare qua da me è impossibile. Cazzo, arrivava a casa, arrivava 8-9, cazzo non mi arriva da me, ma buffonendosi. Ciao Claudio, ti salutano tutti gli altri, Antonello, Natalino, Gianni, insomma, e tutti quelli che sono in ascolto. Ce la risentiamo alle prossime, ogni tanto fatti sentire qua sul 10, tanto lo sai che di sera a quest'ora ci siamo quasi sempre. Ciao, alle prossime, vai Antonio. Ehi, Claudio Amuros, mi senti? Che ti ha risposto adesso Antonio, È impossibile che non arriva. Tu ti ha risposto, però mi ha detto che sta provando lui oggi una radio, che era la voleva provare, sta uscendo solo con 4 watt e mezzo, un Intec Mobicom 30 mi ha detto, che quindi sta uscendo anche con pochi watt, capito? Ma è impossibile che non lo senta, almeno un po' l'avrei dovuto sentire. Invece sento una cosa impercettibile proprio, no, non riesco a tirarlo fuori, no. È impossibile. A me qua la zona via Milano mi deve arrivare. Se ti arrivendi, tu che sei in alto, se ti arrivendi così ti puoi immaginare cosa a capolta uscendo. Poi a me mi deve sentire da qua. È impossibile. Cazzo, mi sentivo a casa a bomba. No, è impossibile. Comunque ti ha risposto e ti ha sentito a te. Sì, lui diciamo che con quella radio è un po' in una situazione un po' precaria. E poi mi diceva che anche l'antenna che sta usando non è al top, infatti anche lui la dovrà cambiare. Sicuramente se cambia antenna, Claudio, dalla posizione da Muros, da dove è, capito, riuscirà ad ottenere buoni risultati, capito, perché già è anche in alto Muros, quindi sicuramente più in là, se ha tempo, la cambierà l'antenna. Adesso ha dovuto chiudere, forse aveva da fare, vi ha salutato tutti quanti comunque. Riprendi Natali. Sicuramente si è troncata. Infatti, cazzo non lo sento io, non lo sente Gianni. Evidentemente allora il difetto non è mio, è il suo. Oh, io lo sento bene. È coperto per voi, è coperto, arriva 960 qua. Sì, claro, cazzo 960, ma abitualmente a un certo punto. Però qua non arriva, cioè a casa, cioè se non arrivi in oggi, a casa a me almeno 8 robe mi arrivava. Cioè, dai Noghi, cazzo io l'avrei dovuto sentire sicuro, è logico, cazzo, tu sei vicino lì e riesci a sentirlo, io non riesco a sentirlo perché lui ha problemi, punto, a sassa di lui, arrivava mille per mille che lui arrivava. Non è che io sono vicino, ce l'ho davanti, davvero io quei paesi, capite? Scalavicciocca io la supero, quindi la vedo, c'è un segnalone qua. Non so, evidentemente per lui è coperto, non lo so. No, secondo me c'ha problemi lui, fidati. Perché se non l'avrei sentito qua, l'avrei sentito al 100%, non lo sente Natalino, non lo sente Guido, non lo sente quell'altro. E cavolo, è impossibile. Perché io da casa da qua l'avrei dovuto sentire a bomba. Da casa lo sentivo, cioè che io non ne parlassi, cosa lo sentivo. È impossibile, lui ha problemi. Non quello che va te sta usando, evidentemente c'ha problemi di sì. Ciao Marco Condor, buonasera, avanti. Sì, scusate, sono in pausa, mi sto zuffando al computer, vi sto ascoltando, andate. Cioè, praticamente l'ascolto solo io di tutto il gruppo qua, a parte Claudio, vabbè che c'era di fronte. E anche Carlo lo ascolta. Ma Carlo è in alto, è più in alto di te, c'ha l'antenna qua, e lo sente Santiago 9, mi sembra. sì, però Claudio stasera era con diciamo una radio che dava solo 4,5 watt e Intec Mobicom 30 mi ha detto, e poi ha un po' il problema dell'antenna e la deve cambiare, quindi sicuramente poca potenza e diciamo l'antenna che non è al top, e quindi sicuramente anche per quello, se no dovrebbe arrivare bene anche a Natalino, e anche Antonio sta dicendo che lo sentiva anche bene a casa sua prima. Sì, oggi è liscio anche Claudio di Muros, liscio, 6,5 però, cioè radio relativamente al segnale è anche buona, ottima. Ma tu sei più alto di me, neanche Gianni di Profeta lo sente, non io. Hai capito, è coperto per noi. Vabbè, entro io. Ci abbiamo fatto un sacco di chiacchierate mesi scorsi, prima che facesse quella pausa lì. Ci abbiamo fatto un sacco di chiacchierate e non è che io oggi ho fatto qualche cosa, no? E sicuramente lui non sarà nelle condizioni precedenti, magari no, rispetto a qualche mese fa, e quindi perché io sento un sacco di sporcizia di propagazione, sento borbottare ma no, niente di incomprensibile, capito? Tutto qua. E anch'io la sento la propagazione, Gianni, è per quello che non riusciamo a sentire a Claudio. Evidentemente già sta uscendo basso, magari se pompa un po' lo sentiamo. Come infatti dai roghi, non lo so. A me mi sentite con la tenna di gomma? E a Puglia. 5C arrivava Claudio di Muro, cioè. E beh. Ci sono un attimo di bianco solo, rientro subito. Fatto un break mi sembra. Avanti il break. Adesso sei tu. Adesso lo sei. Sì, ora sì. Ora sì, come arrivo a Muros? KK, QTH via Milano. Fa vedere se senti Claudio, sono Carlo, se senti Natalino adesso. Prima non senti Nianuta. Sì, adesso ti sento Claudio. Adesso ti sento. Poco fa non ti sentivo, neanche Gianni ti sentiva. Non so come. Ecco, dai, io rimango in ascolto che sto facendo cosa, mi saluto tutti, QRX per me. Ehi Claudio, abbassa un po' la potenza perché la voce la sento un po' satura, io forse magari sono troppi watt per qua. Adesso decisamente meglio, adesso la radio è molto molto chiara, prima era un po' in saturazione forse, è troppo vicino e magari è per quello. Sì, Natalino ti sentiva, solo che ha dovuto chiudere perché ne ha farato e quindi ha chiuso. Antonio lo stesso, ti sente già, l'hai sentito? Vediamo Marco adesso come ti sente, ci sei ancora Marco? Cappa, ditemi che ero distratto. Allora ho visto che Chiodo è arrivato a Santiago Otto un po' saturo, poi ha abbassato a 40 e la modulazione ha migliorato tantissimo. Vediamo se mi copia Chiodo Arrugginito, sono con 3 watt reali, 3 watt massimo modulati. Vai Chiodo se mi copi. Entro io al volo, dai. Ciao Chiodo, qui Gianni da questa parte, Rubrofetta. Adesso riesco a tirarti fuori, dai. Santiago 7, la radio è un po' così, per via anche delle spurie della propagazione. Comunque, adesso comunque riesci ad arrivare, dai. Ok, ben sentito. Sì, come ti ha confermato anche Marco, come è passato un pochettino la potenza, è andata via la saturazione, adesso la radio va benissimo. Il segnale è sempre 9+30 adesso da me. Sì, allora, ciao Chiodo, buone commissioni. Prima eri 6,5 invece, quando eri completamente liscio 6,5, è capibilissimo. Certo la propagazione non aiuta, perché io qua ho la propagazione a 5, c'è tutta una cozzaglia di segnali e segnalini mischiati che non aiuta per la ricezione, quindi loro non ti ascoltano anche per quello. Va bene, Io devo staccare urgentemente, rilancio per Carlo che poi farà girare. Vai Carlo. Ciao Claudio, ce la risentiamo, vai pure tranquillo. Riprendi Antonio, ci sei. Ciao Claudio, ce la risentiamo alle prossimine, mi ha fatto piacere sentirti. Ciao Claudio, anche da parte mia, dai, buona serata e al prossimo collegamento, dai. Gianni, ma cosa cavolo hai fatto? Cos'è che c'è, cos'è? Cazzo, c'è un bel forte qua. Anto, non ha giudicato nulla. Te lo giuro, Cioè, già lo sa che non sono lì adesso, non sono a casa, mi arrivi un bel forte in oggi. Oh, è favorevole, cosa ne so qui? Bobo, niente, Anto, non ha giudicato nulla. La ragione è sempre liscia. Non ho toccato niente, non ho cambiato niente. Tutto è tutto uguale. Io, ma è normale, 10 poco voci chissà boomerà. Anche da me, Gianni. Radio Super 5, fondo scala, 9 più 50 qua. Addirittura. Oia. Va bene, dai, la posizione mi aiuta parecchio. Sì, no, diciamo che a casa mia arrivi molto bene, io sì, già sento tutti bene, Natalino, Claudio, Roberto, insomma, anche Sorso, Castelsardo, tutte quelle zone lì, Porto Torres, già sento bene tutti, anche Alghero mi arriva, Santiago Otto qua. In base alla situazione e soprattutto alla stazione radio, insomma, i valori sono variabili, dai, comunque non mi posso lamentare per come sono messo, dai. Visto e considerato le mie condizioni, va benissimo. C'era un po' di gente, poi sono spariti tutti, dai, ognuno sicuramente aveva avuto i suoi buoni motivi. C'era Massimiliano, vai, si è spostato, anche Claudio. E niente, non so in quanti siamo rimasti, c'era anche Antonello. Antonello, ci sei ancora? Evidentemente ha da fare. Natalino, idem, ha da fare, siamo rimasti. Marco mi sa che è lo stesso indaffaratto. Io, Gianni e Antonio, poi non credo che ci sia nessun altro. Antonio, ci sei ancora tu? Va bene, io vi saluto. Saluto a tutti, ciao ciao. Ciao Antonio, buona serata, immagino che stia rientrando a casa adesso. Ce la risentiamo, alle prossime. Vai Gianni. Venga, ciao Antonio. Anche io, un paio di passaggi, mi vesto e vado a prendere una meritata boccata d'aria. Sì, anche io adesso inizio l'ora, diciamo, di punta per la cena, mille cose da fare. Comunque rimango in ascolto, anche perché sono curioso se entra Enrico dall'Isola Rossa in AM, gli ho detto di fare chiamata sul 10, ha detto che lui avrebbe potuto chiamare dalle 7:30 in poi e vediamo un po' se lo riesco a tirare fuori. Ehi, dai, allora ti saluto anch'io, dai. Ci si aggiorna e niente, dai, buona serata anche agli ascoltoni, dai, le orecchiette pelose piccole piccole. Ciao Gianni, alle prossime. Prova. Va bene, nessuno c'è. Ehi, ci sono io già. Ehi, è andata lì. Già stai andando bene, dai. Ehi, cappa. Sono basso, intero. Ciao Gianni. Ciao, buonasera anche a te, Carlo. Natalino, ci siamo sentiti anche poco fa. Eravamo tutti qua. Io ho acceso adesso, perché c'ho il cane che bisogna che lo porti al veterinario. E sicuramente, odorando l'erba, gli è entrato un fuorasacchi nel naso, sta sempre star luntendo. E gli è uscito anche un po' di sangue. Adesso ho chiamato il veterinario e mi ha detto un attimino che sta visitando, che mi richiama. Devo aspettare che mi richiami lui. E scusa, che problema aveva il cane? Un fuorasacchi nel naso gli è entrato sicuramente, come ha odorato l'erba, gli è entrato un fuorasacchi dentro il naso. Caspittina, non è niente di grave, però quella roba va rimossa subito, sennò poi va in profondità. Lo so. Mio padre, le d'estate, quelle cose le faceva all'ordine del giorno, perché faceva il veterinario. ho detto che mio padre quello lo faceva di routine d'estate, perché faceva il veterinario, quindi aveva le pinzette lunghe con la sondina e li toglieva. E adesso lo richiamo, e io c'ho un bravo veterinario, capito? Il mio è molto bravo come veterinario. Sa che ho sentito qualcuno sotto, barracuda, mi